19.02, 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Questa è la puntata numero 88, se non erro, vero Pinklo? Donna Sonica, corretto, Pinklo, corretto. Per una retta di musica insieme, dai! E allora bentrovate a tutti e a tutti, torniamo sulle 87.9 di Radio Onda Rossa in diretta per una nuova puntata di Likewise. 0649 1750, se ci volete chiamare ci trovate qui fino alle 20. In realtà poi ci sono anche le altre trasmissioni, quindi se volete chiamare alla radio potrete farlo anche dopo. Esatto, esatto, il martedì di musica della radio, likewise@ondarossa.info. Se volete scriverci, commentare, chiedere e fare qualsiasi... Dire, fare, baciare. Esatto. Quello che vi pare. Noi intanto partiamo subito. Lei si chiama Lava La Rue, Push and Shove. Trying to hold you but your touch was light. Cold weather with a clear blue sky. They think I'm ice and they ask me why. I guess I want an alibi, but it wasn't right. It wasn't right and she asked on sight. Cold weather with a clear blue sky. They wanna fight, but I told you twice. I guess I want an alibi, but it wasn't right. Self-reflective, Millie told me to be more selective. But I wanna be hard to my abandonment. Love issues make a sticky situation so subjective. But now you disposing of, free me away like some rubber gloves. Use me once, wanna use me once. But me no butter with no drama, all this push and shove. You Lava la Roo, Push and Shove, tratto. Vi vediamo che avete aperto il frigo in cerca di un cocktail. Esatto, fresco. Esatto. Uscirà il prossimo 19 luglio il lungamente atteso album anche di da debutto, noi, anche da noi, infatti, perché comunque Leva è passata molto spesso da queste parti con un album già dalla prima stagione. Esatto, che si intitolerà Starface, sì, perché ha snocciolato una serie di singoli EP in questi anni. Sicuramente sarà un album molto interessante da un punto di vista della sua solita, noi siamo abituate a sentire la sua esplorazione, il suo passaggio da un genere all'altro in maniera molto sciolta, molto fluida, molto morbida, funky, dance, rock, chitarra, insomma tante collaborazioni anche all'interno di questo album che uscirà per Dirty Heat. Questo è già il terzo singolo che esce dall'album. È già il terzo singolo. Loro insomma sono un artista non binary, she, them, il pronome che preferiscono usare loro, risiedono a Londra, hanno origini giamaicane e come vi abbiamo detto prima di questo debutto sono usciti altri tre EP, Letra, Butterfly nel 2021 e High Fidelity nel 2022, che credo qualcuno di questi sicuramente è passato dai Lucky Whites. Per me potrebbe essere il disco dell'estate. Sì, ti insieme lanci a Remy Wolf. No, no, quei dischi che comunque d'estate fanno piacere perché appunto ti portano anche in queste atmosfere un po' da isole, da mare, da insomma danzereccia, anche se c'è poco da danzare in questo momento storico che stiamo vivendo, ma noi ce la facciamo. Però vabbè, questo è anche un po' un omaggio agli anni Ottanta, si sente sì, pure un po' questo singolo, quindi l'album potrebbe essere più particolare di quello che crediamo. Comunque sono 17 tracce, quindi avremmo voglia, penso pure io, di capire. Ma lei dice che la cosa più radicale che possiamo fare in questo momento è continuare in qualche modo a fregarcene nel senso non di fregarcene, però a fregarcene di quello che ci arriva addosso e continuare a mettere invece in evidenza tutte le cose buone tra quelle cattive. Le persone di entrambe le parti, non so quali parti intende lei, poi forse nell'intervista lo spiegava meglio, cercano di farci sentire inutili perché predichiamo la pace e l'amore. Ma se non lo facciamo noi, chi lo fa? Garantisco che la speranza che le cose possono migliorare come possono farle accadere ci porterà più lontano è tutto fottuto. La cosa più radicale è continuare ad amare. E noi siamo sai d'accordo, sai che sono i messaggi Leva, molto Summer of Love, che comunque io sempre considero attualissimi, tra l'altro più che Summer Vita of Love se fosse possibile. Noi ci proviamo e devo dire che insomma durante questa pausa che abbiamo fatto, visto che ne parliamo, anche la nostra Kathleen Hanna dallo stage dove si esibivano le Bikini Kill, che ho avuto la fortuna di ascoltare, anche lei ha detto un sacco di cose molto belle, molto importanti. È una di quelle che mi ha colpito di più, siccome nel pubblico c'erano veramente almeno sicuramente quattro generazioni di ascoltatrici, quindi da insomma chi era nata negli anni 60 e chi era nata 16 anni fa praticamente, altro ieri, tutte a pogare nello stesso diciamo pitch insieme, quindi a divertirsi, a sudare insieme. E è stato molto bello soprattutto l'incoraggiamento che Kathleen ha lanciato dal palco a tutte le diciamo le artiste, le cantanti che hanno il coraggio di stare davanti lì sul palco, e a tutte le artiste che fanno musica in questo momento così difficile per la musica, e di continuare insomma le incoraggiava dal palco, ed è stata una cosa molto emozionante soprattutto per chi era nel pubblico, quindi insomma è un bel anche questa parte qui, anche ricordarci le cose belle, anche darci coraggio, darci forza è molto importante. Necessario, direi. Andiamo a Londra con lei, che però è romana di nascita, Maria Chiara Girò con Grow. We'll be right back. Questa è la Maria Chiara Argiro. Grow era il pezzo che abbiamo scelto dall'album uscito il 26 aprile scorso per Innovative Leisure, che è una etichetta americana per la quale appunto ha pubblicato questo Closer, che è il suo album diciamo forse più maturo da un certo punto di vista, almeno dal punto di vista del percorso musicale che adesso ha intrapreso Maria Chiara. E come si suol dire adesso ormai, tutte le donne politiche solo per nome si chiamano nella stampa, l'Argiro invece diciamo noi, quindi insomma, che in realtà nasce dal jazz come pianista anche molto affermata, che insomma ha girato il mondo con diciamo suonando questo genere di musica, e che a un certo punto appunto esplora da solista altre sonorità insomma molto molto interessanti, anche insomma che hanno tantissimi richiami ad un passato, a folktronica eccetera, ma non solo, a cui noi siamo affezionate. Una cosa molto interessante che leggevo rispetto alla preparazione del tour che accompagna appunto l'uscita di questo album, che accompagnerà insomma che vedrà protagonista Maria Chiara Argiro per quest'estate, è il suo lavoro, che era un lavoro anche abbastanza complesso come raccontava, di provare a suonare live questo disco senza computer, quindi con strumenti anche synth, però comunque tutto analogico. Molto più analogico rispetto a quella invece che la produzione dell'album, che è molto bello, noi vi consigliamo di ascoltarlo. Sì, secondo me è molto bello, è un po' diverso dai suoi lavori precedenti, quindi che non so, è passata dalle nostre parti con Forest City, che era del 2022, e credo la prima stagione anche lì, perché sono già passati 3 anni, però lei è molto felice di questo disco, dice che è completamente diverso da tutto quello che ho fatto prima, sono molto legata a questo disco, non mi sono mai sentita così soddisfatta di qualcosa, quindi gli risuona tantissimo, cioè è anche strano, cioè è raro che comunque l'artista si esponga così tanto rispetto al disco che ha appena prodotto senza in qualche modo badare poi a come può venire accolto, ma lei è molto molto contenta, dice che ha avuto una chiarezza che non ha avuto per altri dischi, è un disco molto intimista, molto vicino insomma ai suoi pensieri, è molto interessante, io lo consiglio, e anche soprattutto punto... la parte centrale del disco secondo me è molto bella. Sì, me lo dicevi oggi mentre insomma ci scambiavamo idee, appunto spunti rispetto al programma, insomma sì, noi vi consigliamo proprio di di prendervi un po' di tempo per ascoltarlo. Tra l'altro insomma si sperava in questi anni che la Argiro diciamo raggiungesse un pubblico un po' più vasto, visto che comunque fatica e lavoro e talento ne ha tanto, ma in realtà rimane ancora un artista molto di nicchia, almeno soprattutto dalle nostre parti. Forse questo disco però potrebbe essere più ascoltato diciamo da pubblici un po' più ampi, secondo me vedremo, a noi ci piace lo stesso, non è che non ci importa. Tutte quelle che non sono famose ci piacciono. Terzo verso della scaletta, le Mandy Fossifia. I could un po' di chitarre come piacciono a noi. Mandy Forsythia, il terzo pezzo della scaletta di oggi di Likewise, puntata numero 88. Miranda Winters è la musicista che diciamo si cela neanche tanto dietro lo pseudonimo di Mandy. Questo album è uscito a fine aprile per la Exploding Sound e l'album si intitola Lone Girl. In realtà Miranda Winters l'abbiamo incontrata anche come diciamo chitarrista e cantante di Milk Belly, che è appunto una band di Chicago, da dove appunto nella scena DIY di Chicago in cui lavora e si esprime Miranda. Secondo me un bell'album, molto molto piacevole, almeno se vi piacciono queste sonorità. E vi segnalo anche la sesta traccia, che si chiama ora ve lo dico perché non me lo ricordo, non mi ricordo esattamente. Now That I Am Woman, che è una cover di un tratta da un fantasy animato del 1982 che si chiama The Last Unicorn. Forse qualcuno ne avrà sentito parlare. Questo pezzo appunto si intitola Now That I Am a Woman. C'è anche una bella versione, un bel video tratto da questo pezzo, scritta da Jimmy Webb, insomma famoso autore, soprattutto compositore, che ha composto per moltissime musiciste, moltissime cantanti, e insomma secondo me è anche una bella versione molto molto interessante di uno dei film animati che lei dice secondo lei è un capolavoro. Io non l'ho mai visto, tu l'avevi visto? No. Ah, ok, quindi lo dobbiamo recuperare. Recupereremo. E, è interessante questo lavoro, perché chissà se i Milk Belly esisteranno ancora. Non so, esatto. Mi sono fatta un po' questa domanda a un certo punto, leggendo un po' di interviste, nel senso che lei ha sempre suonato, sono 15 anni che suona con i Milk Belly, Chicago dintorni, tour, dischi. E, ma per questo disco, in realtà, la sua band è tutta al femminile. Sono sì. Linda Sherman alla chitarra, Liz Smith al basso e Wendy Zeldin alla batteria. E è un'esperienza, lei ha detto, completamente diversa. Dice: l'atmosfera è diversa, le conversazioni sono diverse, posso fare molto di più. È uno spasso, sostanzialmente ha chiuso. È più divertente di quanto potessi immaginare. Quindi, chissà se poi alla fine questo, più che un disco solista, sarà in qualche modo il disco di un'altra band che magari accompagnerà la sua carriera. Non dico adesso che lascerà i Milk Belly, però mi sembrava che questa esperienza, esatto, l'avesse presa più positivamente di quanto credesse. Ci ha registrato il disco con loro e ci andrà anche in tour, quindi comunque ci saranno anche altre occasioni per cementare insomma questa unione musicale. Bell'album, godibilissimo, Lone Girl. Noi vi appunto suggeriamo di ascoltarlo, come facciamo sempre qui a Likewise, insomma le cose che ci piacciono, che ci stiamo ascoltando in questo momento. E come vedete in questi giorni stiamo anche recuperando, visto che si diradano un po' le uscite, perché le band sono principalmente impegnate in tour un po' dappertutto. Tra l'altro ho visto un bellissimo video delle Lambrini Girls, che erano qui in Italia dalle parti di Ravenna a fare un concerto, che appunto, come è il loro solito, surfavano sulla gente mentre suonavano e cantavano e facevano di tutto di più. Deve essere stato un concerto molto molto molto molto divertente. Se l'avete visto, esatto, o avete visto qualche altra cosa che vi è rimasta impressa, ce lo potete dire 0649 1750, ce lo potete raccontare mentre siamo qui live, oppure ci scrivete a likewise@ondarossa.info, o ci mandate un vocale, non lo so infatti. Ingegnatevi. C'è anche un canale di cui non abbiamo parlato oggi, dove vi giuriamo non diciamo cose inutili, ma soltanto noi poi guarda poi è noi... già tanto che mettiamo le puntate, non parliamo, noi parliamo solo al microfono, che è likewise_trx, dove appunto potete ricevere ogni settimana il link per riascoltare il podcast della puntata se ve la siete persa, se volete riascoltarla, e appunto le playlist che mettiamo a disposizione, così insomma quando volete riascoltare tutti i pezzini senza le nostre voci. E vi ricordiamo che comunque trovate sempre tutti i podcast sul, sito della radio ondarossa.info, dove trovate ancora attivo il radio abbonamento. Tra l'altro sono appena arrivate le borracce di Power Surgery in bellissime, edizione limitata, sempre 37 pezzi, come insomma questa cifra un po' a cui vorremmo arrivare per cercare di stare tranquille, diciamo, tranquilli tutti con la radio e pagare tutto quello che occorre per mantenere in piedi la radio un anno. E quindi se ancora non l'avete fatto potete farlo, radio abbonatevi. Se siete curiose di vedere come sono queste borracce, andate appunto su ondarossa.info, cliccate sul banner e poi troverete in basso a destra diciamo l'immaginetta con la borraccia, così insomma non resisterete sicuramente perché sono veramente bellissime. Prossimo pezzo, lei si chiama Claire Rousey, It Could Be Anything. Yeah. Christmas tree, trying to stay involved. Questa era Claire Rousey, It Could Be Anything, diciamo svolta un po' pop musicalmente dell'artista con questo album che si chiama Sentiment e che è uscito una svolta. In che senso? Non so se è una svolta, uscito a fine aprile comunque per la Thrill Jockey, giusto per completare. Allora, in che senso non sai se è una svolta? No, perché penso che abbia diversi registri stilistici, faccia talmente tantissime cose, nel senso nel 2002 ha pubblicato 4 album diversi con artisti diversi, quindi sì, lei ha dichiarato che questo disco voleva farlo così, però... Vista anche il suo grande talento, appunto la sua quanto è prolifica, non so se poi sia un cioè manterrà questa cosa qui. Sicuramente questo disco ha scelto di farlo così, questo l'ha detto in diverse interviste, mi sembra di aver letto. E noi siamo state un po', diciamo, indecise se proporvelo o meno. Ci sono alcune cose che normalmente non ci piacciono, cioè non ci piacciono proprio per gusto, diciamoci la verità, non è una cosa ideologica, certo. Tipo l'utilizzo diciamo sfrenato dell'autotune come nel caso di tutto l'album di Claire Rowe. Così, appunto artista canadese transgender cresciuta negli Stati Uniti che diciamo in qualche modo in realtà poi alla fine ha un senso da un punto di vista proprio del diciamo del creare una voce altra rispetto a diciamo alle altre sue produzioni, quindi in qualche modo questa cosa ce l'ha fatta un po' piacere, anche se non è proprio il tipo di sonorità che ci fanno impazzire. Esatto, diciamo che messa dentro questo discorso più ampio acquista un senso e quindi tutto sommato poi in qualche modo si fa ascoltare. Poi c'è molto del suo stile, nel senso che quella raccolta di altri suoni, quel tipo di voce a creare in qualche modo come un paesaggio sonoro, una specie di racconto in qualche modo a tu per tu, un po' con te stesso, un po' con l'altro, in qualche modo l'altro inteso come tutti. E alla fine è un lavoro comunque interessante. Se riuscite a superare l'autotune come abbiamo fatto io e Dona, vedrete che lo ascolterete e vi piacerà. Sono molto intense anche le liriche di questo album. In particolare mi fa piacere, diciamo, raccontarvi del fatto che comunque, in particolare in un pezzo che si intitola Head, c'è questo, diciamo, racconto di un modo di relazionarsi alle persone in cui in qualche modo ci si mette a disposizione, si fa tutto per queste persone, anche cose diciamo in qualche modo tutto sommato inutili, perché non ci si sente abbastanza per meritare l'amore, l'interesse e la vicinanza di quelle persone. Quindi insomma ci sono anche dei temi molto molto forti, molto intimi, e ripeto, come abbiamo pensato e sentito riascoltando l'album, forse appunto questa idea della voce deformata rende anche possibile questa intimità sì. Così diciamo forte. Esatto, anche tutti questi racconti insomma su di relazioni queer, di queerness che c'è in tutto il disco. Cercatevi i suoi lavori comunque, perché ne ha fatti tanti. Magari se non vi piace quest'ultimo album che si chiama Sentiment, che è uscito insomma ad aprile, potreste ribeccare qualche altro lavoro. Vi ripeto, ve ne ha fatti veramente tanti, non li nominiamo tutti perché in circa 2 anni credo che ne ha tirati fuori una ventina, quindi c'è molta produzione e anche cose molto più particolari, sperimentali. Quindi le sue prime produzioni sono del 2017, Blip, e poi da lì in poi ce ne sono tantissime. Una di queste è quella che ascoltate in sottofondo, che è appunto la B-side diciamo di questa scaletta di oggi, e che è tratta dall'album A Softer Focus, e che diciamo come potete sentire, forse anche sentirete se andrete ad ascoltare la nostra grande, enorme scaletta di B-sides, cioè quelle che non ce l'hanno fatta a diventare quelle ascoltate durante il programma, potete anche farvi un'idea di quanto poi sia vario quello che ha la sua produzione. Invece passiamo a un artista che conosciamo bene bene bene. Esatto. Non vi diremo niente di Eleni Franco, tanto dalla voce si riconosce Virus. Io non gli avrei detto neanche il nome, niente, non è lei, Virus. Thank you. that jinxed the world and caused this strife. Yes, I long so long for fewer nouns. I long so well the world shut down. And now the killer is calling the pot black kid. I call you virus, but you don't call me back. So I just keep listening to my so deeply pleased to pause this life. Questa era la voce inconfondibile di Alain Di Franco. Virus è il pezzo che abbiamo scelto da Unprecedented Shit, che è il suo 23esimo album. Sarebbe dovuto uscire nel 2023, e quindi insomma, perché lei c'ha un po' sta fissa dei tre, è nata il 23, quindi insomma c'ha un po' una fissa, era molto particolarmente significativo come coincidenza di numeri. Poi è uscito nel 24, ma in realtà fondamentalmente era completo almeno tutta la parte della registrazione della chitarra e voce, perché poi ha funzionato un po' così, no? Nel senso che lei ha registrato le sue parti e poi le ha mandate a BJ Barton, insomma un tipo che ha suonato così, cioè ha prodotto Low, tanto per dirne una, per farsi, diciamo, in qualche modo aiutare a creare un suono che è effettivamente leggermente diverso da quello che sono le sonorità a cui siamo abituate dalla Di Franco. Che dici, Pinclo, tu? Dico che quando si ascolta Annie è sempre un po' una voce amica in qualche modo, perché dai, l'anno prossimo fa 35 anni di carriera, quindi tutto sommato qualcosa gliela dobbiamo, nel senso che anche a livello proprio di quello che ha fatto nella musica, lei appena era comunque pischella negli anni 90, si è fondata l'etichetta discografica, cioè ha iniziato a prodursi, cioè comunque è stata apripista su certe cose per tante altre artiste, etichetta che ancora funziona, che produce anche altri artisti, che li supporta nei tour. La Righteous Baby, che insomma Babe, anzi dovrebbe essere la pronuncia probabilmente, sì. Che insomma è appunto la sua etichetta, quindi sì, no, avevo dimenticato di ricordarlo, invece molto importante. Penso un po' di sì. Poi questo disco non è sai, quando superi una certa età dipende tanto da cosa sei affezionato di quell'artista lì, quindi un po' è diverso, sì, ci sono pezzi molto belli, altri un po' meno, però parliamo di una carriera talmente lunga e comunque quando lo metti con la sua voce lì, in qualche modo almeno a me, per me è un po' familiare, quindi poi il disco lo ascolto con piacere anche tutto. Boh, se vogliamo ricordare qualche disco suo, non lo so, perché veramente sono no tanti. Perché sono troppi. Una cosa interessante che lei diceva rispetto a come le erano tornate le tracce una volta che erano passate per le mani di BJ, è che appunto racconta Annie che è rimasta molto sorpresa in senso positivo di quello che in qualche modo era stato aggiunto per armonizzare e per arricchire queste tracce, che lei in qualche modo dice erano molto grezze, scarne. Molto scarne, come in realtà è poi il suo modo di comporre, il suo modo di cantare, insomma i suoi pezzi. Quindi la sua idea era di inserire una cosa che non fa di solito, della tecnologia, cioè dei suoni diversi da quelli che solitamente fanno parte della sua produzione, quindi insomma in qualche modo anche richiamando quello che è, diciamo, il rumore continuo, costante delle macchine che fanno parte della nostra vita, che diciamo esiste, insomma, che ci circonda, del quale ormai siamo quasi totalmente immersi e quasi anche totalmente inconsapevoli ormai. Quindi insomma è una cosa interessante, probabilmente uno di quegli album che arriva un po' dopo, lentamente. L'ho pensato anch'io, quindi vi consigliamo comunque di ascoltarlo. Tra l'altro potete spaziare, se non la conoscete, nella sua immensa discografia di 23 dischi, va, Little Plastic Castle, Evolve, Delayed, l'omonimo, insomma, anche usciti più recenti, cioè, ci sono tante cose, dai, qualcosa si trova. Qualcosa troverete che vi piace. Prossimo pezzo che noi speriamo vi piaccia. Loro sono Blushing Tamagotchi. Lo shoegaze è vivo e vegeto. Blushing Tamagotchi è il titolo del singolo che abbiamo scelto da questo bello bello bello album che si chiama Sugar Coat per la Canine. Sono stata bravissima perché l'ho buttato io in scaletta questo disco, tanto tutto questo non me lo cassa sicuro. Boom, infatti, visto. Vedi, io mi autocensuro in realtà per non sottoporti a terribili oppressioni di shoegaze. E invece, appunto, come tutte le produzioni che spesso passano da queste parti, in realtà bello questo album, a parte gli scherzi, è vivo e vegeto, nel senso che c'è veramente una seconda vegeto. No, a parte quello che dice esatto, a parte le cazzate che volevi dire questo. A parte questo, però è conclamato anche da critici musicali che scrivono sui giornali, che lo shoegaze è rinato, ha una seconda primavera, insomma tutte quelle cose, frasi un po' così, però effettivamente lo sappiamo benissimo benissimo, l'abbiamo fatto rinascere noi. Noi siamo state, cioè, likewise, prima esatto. Nessuno se lo sentiva. E insomma, da parte, cioè, come spesso succedeva negli anni 90, c'erano un po' dei filoni dello shoegaze dream pop che avevano, diciamo, delle caratteristiche particolari, e si può dire che Blushing fa parte della, diciamo, del filone un po' più melodico rispetto ad altre band che sono passate anche da queste parti, tanto per dire. Slow Dive, che dire, stavi dicendo una cosa di gossip, però te la lascio a te, che lo sai che io non sono bravissima. Vabbè, prima delle cose di gossip volevo dire che questo è il loro terzo disco, sì. Che esce sempre per la Canine Records, è uscito il 4 maggio, Sugar Cut, ve l'ho appuntato, se no poi ci dite che non diciamo come si chiamano gli album. Il gossip è che loro sono gli ABBA dello shoegaze. Perché sono due cose. Questa è la tua definizione. Non si autodefiniscono. No, loro così. Non si autodefiniscono così. Li ho definiti io così perché sono due coppie, Michel Soto e Jacob Soto, che sono sposati, e poi Cristina Carmona e Noè Carmona, che sono sposati. E in realtà la band è nata tra Michel Soto e Cristina Carmona. Non vogliamo creare. Non vogliamo creare divorzi immediati. Perché no? Però subito mettiamo. Perché no, loro hanno iniziato a scambiarsi, insomma, del materiale, e in qualche modo così si sono messe a suonare insieme, e hanno nel 2000... Poi si sono tirati dentro quelli. Si sono tirati dentro i mariti ai loro. E hanno debuttato discograficamente nel 2017 con il loro primo EP che si chiamava Theater, e ne hanno fatto un altro l'anno dopo, e nel 2019 invece è arrivato il loro primo disco. Questo è il terzo, quindi se vi piace lo shoegaze, ormai dopo la terza stagione di Likewise è quasi sicuro, se no recuperate, avrete probabilmente Blushing. Abbandonato. Eravamo molto indecisi se farvi ascoltare Tamagotchi, che ci piace molto, e invece Sugarcoat, che andrà appunto anche questo nella nostra B-side, perché Sugarcoat è veramente cioè proprio dark. Fallo sentire un pochetto. No, niente, alla fine abbiamo fatto sentire. Esatto, perché sono le 19:48, dall'altra parte del vetro di Radio Onda Rossa ci sono note, cose e città che non aspetteranno troppo i nostri ritardi, che ovviamente sono già conclamati, quindi... Prossimo pezzo. Prossimo pezzo, lei si chiama Floreana e il pezzo si chiama Come Lei. questa era Floreana, il pezzo, il nome dell'artista, tratto dall'album Floreana One, che è appunto, come si può sempre immaginare, sempre io suono, cioè giusto per farvelo rimanere impresso nella mente, ed è appunto quello che si preannuncia come il primo lavoro di una serie divisa in tre parti, in cui praticamente c'è un po' di tutto, cioè dall'elettronica come si può dire, dall'elettronica, però quella certo tipo ambientale di... sì, quella esatto. Da un tempo si chiamerebbe, esatto, a strumenti diciamo analogici, anche diciamo poco usati nella musica, sintetizzatori, drum machine vintage, insomma c'è di tutto di più in anche questo tutta album. Qualche strumento di vibrafono, tipo gli xilofoni piuttosto che, esatto, quindi insomma cose che messe insieme in maniera molto interessante. Veramente questo è un lavoro, è un EP che veramente dovete assolutamente ascoltare, cioè completamente, nel senso mettetevi da una parte sempre cocktail alla mano, cocktail analcolico, alcolico che volete, e insomma con una cosa in una situazione comoda, una posizione comoda, e ascoltare, perché è veramente un viaggio. Anche perché lei, e questo è il suo debutto, ma in realtà sì, lei è una musicista con una carriera decennale come bassista, chitarrista e suonatrice di sintetizzatori. Ha fatto la bassista nella band live di Taylor Swift, ha detto bass non ne posso più di tutta la musica pop, no è vero, così è, e ha iniziato a esplorare il proprio suono e a sperimentare lei con la registrazione, e ne è venuto fuori questo lavoro, niente male. Lei si chiama Victoria Murdoch, comunque Floreana è il suo nome d'arte. Quindi noi ci aspettiamo anche gli altri due, vediamo se escono durante l'estate, dopo l'estate, settembre, ottobre, perché ci è piaciuta tantissimo. Poi sono quattro pezzi, finisce, lo volete rimettere da capo, lo possiamo dare per certo, assolutamente, c'è, cioè, un EP che scorre velocissimamente, molto piacevolmente, quindi lo vorrete riascoltare. Noi dobbiamo fare una scelta, perché mi sa che non riusciremo a mettere tutta la nostra scaletta. Ed è un peccato, perché avevamo tre pezzi molto belli secondo me. Io proporrei di mettere Air. Stavo per dire la stessa, no, ogni Madonna, tanto siamo d'accordo, incredibile. Quale abbiamo scelto? Quale è? Quello abbiamo Glitch in Time, Air. What are they gonna do? What they gon' say? You know they wanna play dumb, still study our ways, still testing my patience. When are you gonna pay up? I was tight on a wake up, pull the rest of bitch face. My mind got it made up. What bitch gotta say, son? Who lives in a way? Who munch in a day? Tell me how it tastes. Oh, you really ate that, but not in a way. You think you really thought you had that one? You was just in my face, boom. Now you acting day room. What's it gonna take to just get through the fake news? Just take cues, but don't take cues. How much we gave you? What are they gon' do? What are they gon' say? You know they wanna play dumb, still study our ways, still testing my patience. When are you gonna pay up? I was tight, wanna wake up, call the rest of bitch face. Questa è la Hair, si scrive H31R, se volete cercare il nome di questo duo di elettronica hip hop sperimentale, composto dalla produttrice e compositrice del New Jersey Jay Words e la rapper vocalist Masai di Brooklyn. Headspace è il titolo di questo lavoro bello bello bello, uscito per Ninja Tune. Assolutamente, noi ce l'avevamo un po' perso, perché appunto non ho capito come, però non hai capito come. No, perché è un progetto, un lavoro molto molto bello, quindi un po' strano che ci è passato, però era fine anno, novembre, uscita a novembre in realtà, fine anno dell'anno scorso, dove ci sono tantissime uscite, si comincia a fare il best of, quindi magari ce lo siamo perso un po' per quello, ma l'abbiamo recuperato qui verso l'estate, tanto i dischi mica vanno a male. Loro si sono incontrati durante uno spettacolo nel 2017, sono diventate rapidamente recentemente amiche hanno cominciato a conoscere i propri rispettivi stili di produzione di rima, e devo dire che è un incrocio pazzesco. Perfetto. Tra musica elettronica e hip hop, così, cioè veramente molto molto bello, molto interessante. Poi, come sapete, questa, diciamo, fusione, l'hip hop, l'elettronica e anche, diciamo, la parte sperimentale della, di entrambi i generi, è una cosa che ci piace molto ascoltare qui a Likewise. E quindi, insomma, sì, poi quando ci siamo ripassate sopra questo album abbiamo detto: che è successo? Perché ci siamo perse? No, dobbiamo farlo assolutamente ascoltare. Abbiamo fatto ascoltare un pezzo piccolissimo, in realtà, che dura un minuto e mezzo, che si chiama Glitch in Time, non a caso, secondo me dura così poco. Magari ascoltiamo un altro pezzettino di un altro pezzo che si chiama Rotation. Mood is not specific, can't explain. That's cause it be different every day. Ones who never lived it think it's lit in every way. Like they don't see the dip at end of day. Like they don't need to ever turn away when the shine is in their face. Your eyes is gonna pay for that, your sight is gonna wane. You don't see the sleight of hand, what card you wanna play. Blinded, I would say. No accents to lighten it away. See you locking with your shadow, so if you'll never know your pain for real. Never see the light of day if you live that way for real. I think it's the right to say, I don't know what way to feel. Take it day by day to heal. Not enough of climb to make. Take that to the day to heal. It's not a line. Healing happens in another plane. I kill the lights and let the ego do its thing. But you can't stay in there, come up for air. Look at your face again, you see it's there, it's different. You just take it in and make amends. Sun is feeling different on the aching skin. Like the breaks in it, give the rays a way to make it in. Now what you retain, you could take it to that place. But then, why you take the darkness to the face again? The sun goes up and comes down. The sun goes up and comes down. The sun goes up and comes down. The sun goes up and comes down. It's gravity, it's agony and relief. It's grief and joy, it's war, tragedy and peace. It's needed for the equilibrium. Imagine the delirium spinning with the earth as a shared object, but feeling the qualities of a human conscience. We spirited, the spectrum of feeling is never ending. It's forever bending, we forever mending. Each cut we heal from leaves a scar that blends in with our new branding. Adds a different decoration to our understanding. E tutte pillole velocissime, tostissime anche, no? Cioè proprio che prendono da tutte le parti del corpo. Questo progetto che vi ricordiamo si intitola Headspace, è il titolo dell'album. Loro sono Hair, scritto H31R. E questa è la nostra sigla, perché incombe note, cose e città. Sì, sono le 20, quindi insomma lasciamo la console in orario per una volta. E non perché non avevamo i pezzi, perché ce li abbiamo, ma li butteremo nella scaletta di martedì prossimo. Avanti, pensiamo di farvi compagnia fino alla fine di giugno sicuramente, e quindi almeno altre due puntate di Likewise ci saranno, e quindi le ascolteremo la settimana prossima. Vi ricordiamo di restare in ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo Note, Cose e Città c'è Semilla, poi c'è Morfire col reggae, poi ci sono le repliche comunque della radio, perché sempre uno magari si perde dei programmi in diretta e quindi può recuperarli. Di che parlano i nostri Note, Cose e Città? No, si parlano di Steve Albini. Ok, allora la maglietta scella che abbiamo visto non era casuale. Non era casuale, penso fossero... Okay. Tipo in atmosfera, come per mettersi in tono. Sì, ricordiamo che è scomparso all'improvviso, l'abbiamo ricordato anche a Likewise quando è successo. Una grandissima perdita per tutti noi, per i musicisti, per la musica, per l'industria musicale, insomma un po' per tutti, per noi musicisti e per i musicisti soprattutto. Likewise finisce qui, questa era l'88esima puntata. Se volete scriverci likewise@ondarossa.info, se non volete vi vogliamo bene scriverci. Lo stesso. No, esatto, vi vogliamo bene lo stesso. Vi lasciamo in buone mani, buona serata e a tutti. Ciao. Ciao. I don't wanna plague man. Go back for you, I time to exit.